anche della scuola, sai che c'è, certo sta meglio di te. Prova a venire giù da questo piedistallo, sai che c'è, non è difficile, sai, prendi la vita tua.